Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 13 aprile 2015. Boom dell'alimentare in Cina. I paesi del BRIC leader del mercato. Il mercato alimentare cinese negli ultimi 15 anni ha visto un'escalation straordinaria, passando dal 50° posto della fine del secolo scorso alla prima posizione nel 2012, in anticipo sulle previsioni. Alla fine di questo 2015, le stime indicano che il mercato alimentare cinese arriverà a 918 miliardi di dollari contro i 675 degli Stati Uniti. In soli 10 anni, il mercato alimentare cinese ha triplicato il suo valore. Anche gli altri paesi del BRIC, Brasile, Russia, India, oltre alla Cina, sono cresciuti con percentuali elevate in questi anni e sono divenuti i leader del mercato mondiale. Fin qui la notizia del 13 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. I dati sul boom alimentare cinese sono stati resi noti da IGD, gruppo di ricerca inglese specializzato nel comparto food. La crescita è il riflesso positivo di una redistribuzione delle ricchezze nel pianeta, ma c'è anche il rovescio della medaglia. La crescita del settore ha portato all'accaparramento di terre in Africa o, da parte della Cina, a meccanismi di scambio tra derrate alimentari e tecnologia che non sempre tengono conto dei diritti umani. Giorgio Barba Navarretti, docente di economia internazionale dello sviluppo alla Università Statale di Milano. Le materie prime in cui abbiamo a che fare quando parliamo di catena alimentare sono veramente le più primordiali, no? E effettivamente, come un tempo appunto gli inglesi conquistavano le Americhe per coltivare il grano eccetera, anche se vogliamo i cinesi fanno la stessa cosa con l'Africa, no? E quindi curiosamente conquistano terre dove coltivare. Naturalmente la nozione di conquista non è più quella degli imperi coloniali, è una nozione di conquista economica e di scambio, come dice lei, per cui in cambio di investimenti e sviluppo economico si ottiene la disponibilità della terra. Come sempre bisogna vedere con che chiave vengono fatti questi investimenti. Oggi i paesi occidentali che investono dei paesi sottosviluppati lo fanno sulla base di certi criteri che potrebbero non essere necessariamente quelli della Cina. Ad esempio la Cina non è troppo preoccupata dalla qualità dei governi con cui ha a che fare, ad esempio, no? Mentre invece i paesi occidentali ovviamente hanno molti più remore a investire in paesi dove la qualità del governo è molto lontana da quelli che sono gli standard occidentali. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.